attenzione Mario, ci ascolti Santo Zettaro. Chi è che c'è? Bobby! Hello! Ebbene, dormito sì! Mito, ciao, non mito! No, io mi stavo guardando quel programma del ghiaccio. Ma adesso è finito, adesso non so cosa c'è. E dove? Cosa? E dove? Canale Alfa, adesso sto guardando cosa devono dare, tu. Se no ne rifiuto perché mi ha già stufato. Ah, no, no, non me lo guardo, c'è quelle che fanno della roba vecchia, dei casolari rustici in mezzo ai boschi. Oh, yeah. Già ne sanno, dai. Ma che gatto dovrebbe fare pure giù? Dalla roba vecchia che recuperano, ma te seguivi di chi su che muso, badi, bada caffanoli, furmavici, contane, fanno dei locali così, da, magrefi, pure per andare, per riunirsi e andare a caccia, lì, capito, queste fate di trecchi, tutte queste stronzate, da. Ehi, lo so, vabbè, te la saperne fare anche. Ehi, a chi cosa vuole un diploma, pigliare una roba vecchia e arrangiartela e parlare uno scialetti per dire una cosa bellina, ah, si può sempre fare, ma un giorno sei qua, reghi noi poi. Cioè, c'è quello che non c'è buono a fare un cavolo, capi? Però non mi piacciono, perché mi hanno stufato, l'ho guardato per troppo tempo questo programma qua. Quello là invece è più bello perché vanno a caccia, capi? Pigliano i pesci, pochi, orsi, daini, cervi, di tutto, lupi, allora hanno migliato una daina di cervi, l'hanno pugliata a chi si deve alimentare un poco di carne e le figli per recuperare un po' di soldi e poi anche a fare a baratto. Hai visto? Chi vive? Sì, caccia, nei biglietti vai burrinato, vai ricco, perché poi ti la vendi la cosa, oppure la baratta, come l'ha fatto quell'altro, che si è preso un sacco di macchinari, baratta in la cosa, oppure vendendo in zila, i pesci, i salmoni. Queste accoppie razze, hanno inviato un macchinario per imbustarli, li spaccano in due, li puliscono, poi li imbustano con quelle macchinette, confezionano i cartoni e li vendono al supermercato, li vanno belli di là, le trotte bianche, i salmoni, salmone rosa, un abisso di pesce, fresco, fresco. Lo so, già li fanno i soldi, già li devi saper cacciare anche. Già una volta di un equipo si deve campagna a tarragni, e com'è che tarragni? Io trovi sempre il metodo più veloce, anche come questi che fanno vedere. Ma la prima, la seconda, la terza sale già il metodo, come ti fanno, hai compreso? Pigliano i pesci, di giusto pigliano a nastro, se ne fanno soldi. Già lo so, grazie. Poco fa, dopo due ore, mi ho misurato la glicemia a lui. Allora sai quanto è la vita? A 3,60. Senza mangiare, usi. No, mangiare mi ha mangiato due pezzi di cervelletti fritti, impanati col pane grattugiato, ci ho messo anche il limone sopra, ma due pezzi mi. E un pezzettino di quel pane calasoi mi ha facciato tutta la bocca per non mangiarmi un pezzo di pane normale. Oggi stesso mi hanno un pezzo di riso, ma minore, quanto è il palmo della mano, un pezzettino piccolo, io piccolo me l'ho mangiato. E insieme a quello cosa mi ho mangiato? Cos'è che mi ho mangiato Paolo? Ah, e due pezzi d'asparagi, di quegli asparagi coltivati, quelli grossi che già mi piacciono così. Ma due contati tagliati in 4 bit e 4-5 pezzettini di quel pezzo di cervelletto e un arancio. Beh, dopo 2 ore me l'ho misurata a 360. Cazzo, bu. Tanto Maria di mangiare tanti asparagi e fanno bene alla glicemia. Ma lo sai cos'è? Perché mi ho preso il cortisone. Allora devo pigliare il cortisone e questo tipo per 3 giorni la metà. Poi devo alternare un altro tipo di cortisone per 3 giorni pastiglia piena. E poi devo rialternare, devo riprendere quelle da 25 mg per altri 3 giorni, alternata, una di da 25 mg, una di da 5 mg, capito? L'altra, una di una e una dell'altra. È un cortisone che mi rubaccia. Ah, ti fa salire la glicemia così? E beh, logico, il cortisone sì, e poi devo prendere la metà di mezza pastiglietta che è più forte del cortisone, l'ha dato prima, però ne devi dare la metà, ed è minuta a minuta sta battita, ma è potentissimo. Quello serve per l'infezione dei polmoni. La metà è di chissà, chissà di grebati, chissà di vasi, lui ci recappare l'online, a tutti i vagli un po'. Saranno forti un po'. Beh, sono fortissime queste medicine. Sto dicendo, sono come ho 2000 vista, molto muro. Vabbè, poi ci sei fatto, quanti giorni ci hanno? No, di più, 15 mi sembra. Che ti ha passato così in presa il tempo? Oh, 17, 17, perché sono uscito il 17, 17. Cosa vuol dire? Allora per un mese? No, 17 di qui. Perché li ricammina lì, e mi capisco quando l'hai sabugito. Ah, se non puoi pure andare, è giusto il dottore mio che a casa, ma ci ha detto l'ambulanza, che mi ha detto che rovesci, e mi si è fatto ricoverare. Io non ci volevo andare, ero cucato e mi ha detto, avanti chiamo l'ambulanza, ma non ti sei visto che sei verde. Sei già più che dà che no che... Aspetta, aspetta, che ho l'ambulanza, subito mi stanno imbucciando. Tutto fatto. L'unica era, dai. Infatti mi hanno preso il sangue dall'arteria, dell'inguine, mi hanno manteso in 5. Unia d'urori, Luca. Oh, yeah. Me lo posso immaginare. Unia assassini, la gitti un altro punto, dal collo me l'ho preso, me l'avevate preso anche l'altra volta. No, bisogna prenderlo per forza dal lingua. No, che lì fa più male, e lo so che fa male, anche negli altri punti fa. Ha detto, cazzo mi ne sono precato il cicco male, blocca minerale, bigliato. Mi sta posto unia a mano, nano. Ti posso immaginare, ecco. Ma penso che fa male anche lì nel polso, Dal polso non me ne stava più levando, che mi hanno crepato tutti e due i buchi. Mi hanno crepato tutte e due le arterie, sia a destra che a sinistra. Se mi fanno male adesso. Non so cosa è più buono di quella fumata per gli ematomi. Sono tutto unito. Lo posso immaginare. Grazie, ormai è fatta, dai. E adesso devo prendermi l'appuntamento per andare in pulmologia, ma che l'ossigeno me lo deve regolare. Io adesso ce l'ho provvisorio a 1,4, però parava già a fare che andava, però lo deve decidere il pulmologo. Va bene che è venuto all'ospedale a trovarmi, il pulmologo della Secca Bianca. E mi ha detto appena ti rimetti un po' qui, perché ti do l'appuntamento nuovo, per fare dello sottosforzo, per vedere quanto me lo deve mettere. Lui lo decide, certo, come la mamma lo stesso, no? Infatti io ho convinto che doveva tenerlo a vita, invece, grazie a Dio. Sottosforzo... Ti misura la pressione del sangue, no? Dal dito con quella macchinetta, ce l'ho, mi l'ha fatta comparare, mi è arrivata avanti lì, ogni ora me la controllo, però vai a andare lì, sia la pressione del sangue, dell'arteria, sia la pressione, si misura questo macchinario. E più un altro macchinario che deve buffare anche su YouTube, vi sono tre pallini e gli passa. Quello serve per l'allenamento, per il respiro, per vedere se c'è liberi i polmoni. Migliaia, capito. Guarda, piano piano già ti riprendi. Già lo so, uno è arrivato stasera, domani me lo porta, quello di Buffa. Invece quella macchinetta del dito l'ho ritirata l'altro giorno, già funzionava. Se mi vuole che cosa, ma forse ne devo comprare. Chi è? Spezia! Chi è? Noi siamo all'ospedale, ma c'è detto la dottoressa che non ci sei. No, sono uscito, ieri alle 2:30, quasi 3, là sono uscito. Oh, perché intanto adesso lo posso prendere la medicina in pastiglie, il cortisone. Prima lo facevo in vena, capito? Vabbè, allora andiamo via, ci ha detto il dottore che si è andato via, e ho detto boh, non ci ha neanche chiamato, infatti ci siamo spaventati quando non ti abbiamo visto più nel letto, siamo scesi a piano terra per vedere se eri lì. Ehi, capo la mortuaria, dove andare? E allora? Vai, coraggio, va. E poi, non te l'ho detto, Luca già lo sapeva però che era uscito. Anche Gian Maria mi sembra. Gian Maria lo sapeva Paolo. No, la dovevi mi chiamare. Ah, lo dovevo telefonare, poi mi sono dimenticato. A chi doveva ordinarmi le medicine che mi mancavano. Vabbè, ce ne andiamo allora, dai. Se volete passare qua, il caffè già ve l'ho fatto. Oh, inteso hai. Vai, che sono Don Gio Maria. però ho detto, boh, manca avvisato mia. Perché mi sto organizzando, mi mancavano un po' di medicine, ci ho portato le medicine mie là, perché tutte non ce le aveva, là, se non le tenne di là a comprare medicine. Non l'hai visto la degli seguito? In altro comodino va via giù le medicine mie. A chi è di tutte le medicine online? Allora mi stavo organizzando per prendermi le medicine mie, quelle che mi hanno consumato, ordinarmele, e quelle che mi hanno ordinato loro. E dunque dal medico, mandato a Paoletta, giù telefonando un casino, e ancora non ha giù finito. Comunque se vi volete avvicinare il caffè già ve l'ho fatto. Luca, mormito di... Mi vedi? Per cosa? Non ho capito. I vecchi si incassano i gambi di giorno, ma di notte di più. Sente grande di età, no? Non si crede, dai, di 52 anni, mi pumba di femmine. Certo, morte così. Per lo più erano così, vero Paolo? Tutti per i polmoni. Per una femmina varia un treno. E io dossi così, come ti dici, manca un uomo di un anno che possa esistere, la giomaintisa, una tosse del genere, un orco. Ah, ma non è la gente morta, no? Ehi, gente che è morta. Anche tu hai tu becchini, io sono così, sono portantini. Ehi, come ti muriani, ve lo portati e se li buttavano a giosso. Per carità. Unia santa, notti, vivi, Poi ne portavano anche, a tutte le ore. Dopo mezz'oretta si ritornavano a buttare tutto da fatto. Per carità, È morto anche uno che abita qui in piazza. Orlandino, 85 anni va. Che abita lì, qua vicino, mi che parla. Più di 85 anni, vabbè, là c'è buru visto, era bocca a bita, infatti è muto. Vabbè, lì purtroppo è così. È così, Grazia. E quel ragazzo che è morto, figlio del mio cugino, 27 anni. Praticamente, anche se c'avevo la cintura dal... dall'impatto, ecco, gli ha crepato tutto all'interno, il petto. Guarda che quello che era in camera con me, quel ragazzo, non lo so se l'hai visto, è quello che ha avuto l'incidente con quello lì che è morto, lì a Cani, lì per andare a Canica, alla motorizzazione, quello stai dicendo. Ma non l'ho visto io. Perché vedi un uomo quando sei in giù, là di Matteci, che insomma se vanno tutti l'altra camera, che io l'ho giudito, c'era il giorno prima quello. Che la notte non avevo chiuso occhio per colpa di quello, a chi c'ha già preso il carriere. Non dormiva di notte, dormiva di dici. E di notte rompeva le palle a tutti. Allora l'indomani me ne l'hanno levato e mi hanno messo quel ragazzo dell'incidente. Chi va tutti le fratture, il bacino fratturato, i polmoni bucati, va le gote, tutti fratturati, l'arche fratturato, è tutto fratturato. E c'è un tubo da un polmone all'altro. Se le vedrene giù morale, chi si è portato male di lui tutto. Sì, ma chi però? Quello che è morto, cioè quello che è ucciso, non l'ha ucciso lui comunque, quello che era in macchina con lui, quello che è morto. No, questa è l'altra macchina, avevamo un momento che la macchina era, la Hyundai, la macchina era. Lui ha detto che stava camminando e a un certo punto si è visto la sua corsia. Quello che è morto è il cognato. Quello che è morto è il cognato. Che era macchina due. E più la cognata è in coma, di lì però all'altro piano, più su. Sta di una cane che io le conosco, tutti le conosco. E da poi va via, no, quella vicina un tempo visto. Poi invece non si è portato con chi se ne ha pigliato un'altra. Già li conosco, magari li conosco brutti. Io l'autista, quello della macchina dove è morto mio nipote, lo conosco. Brecco. Emanuele si chiama. Ehi, avanti Black. Sì, buonasera Giuseppe da questa parte. Sto provando l'antenna, vi sento con questa antenna troppo bene. Ciao Giuseppe, buonasera anche a te. Lo senti di grazia? No, perché ce l'ho sotto carica e sta caricando. Ho capito. Non ti sente Graziano Giuseppe? Come non mi sente, mannaggia? Graziano. Non ti sente? Il birichino sta caricando. Ah, ho capito. Io a lui lo sento bene. No, l'altro non voglio attaccarlo, manco un'idea. Ma tu Giuseppe lo senti? Sì, sì, Graziano lo sento forte e chiaro. Vabbè, comunque quell'altra che stai provando va benissimo, Lo sai qual è lui? E quella magnetica che avevo comprato tanti anni fa, addirittura questa la usavo quando avevo ancora la Lancia Y, quella che mettevo sul tetto, c'ha una base magnetica ed è piccolina, e sarà 60-70 cm lunga, non di più. Ma per le V e per le U, sì. Penso di sì. Ah, pensi? Se no bruci la radio, me. Andai muove. Beh, ci vuole per le sue frequenze. Quella che usavo per la 27 mi era questa. Lu. Ma rischi di bruci la radio perché non è tarata per quella frequenza. E allora metto l'antennino su adesso. Oh no, Lu, non è così. Degustazione itinerante del vino di Usini. Aio a impuntare. Cantina Ezza Filippo. Tutti i gentini vi sono. Graziano, la guida è un casino. E stava andando piano, ha detto. Ha avuto questo avvallamento, così ha detto si è visto dall'altra parte. Non ha visto più nulla. Comunque lui era ubriaco. Senza assicurazione. Allora lui a me mi ha detto che l'assicurazione ce l'aveva, solo il foglio lì in macchina non c'era, però l'assicurazione era coperta, uno. Oh. Poi che abbia detto sì, allora in quattro hanno bevuto, mi ha detto, in campagna la lui, 14 bottiglie di birra. Siccome questi che stava accompagnando non li ha mai accompagnati, se ne andavano sempre entrando a casa sua, da Canica. E la sera invece ha deciso di dare un passaggio, ma a casa ne chiedi vicino, non gli devi alzare la torrenna a parlare. C'era il pantalone di giusta, in giabbata, se aveva buttato solo un giubbotto in altro, tanto mi accompagnare, andai a tornare. E se mi chiusero in altro, andai a la macchina. Oh, tutto va, c'è auto a ripilare il buco. E vabbè, comunque. Penso che lo condanneranno comunque, perché poi risulta, se l'assicurazione è coperta, cioè, se è coperta dall'assicurazione, c'è un'app, no? Mette un numero di target e dice se è assicurato o no. Sicuramente la polizia ha fatto così, e lì è risultato che la macchina era senza assicurazione. Lo so, lui, mi sono giunti la polizia, e l'indomani che era già lì, sono giunti due poliziotti in borghese, con i verbali, così, che riserve che hanno fatto e tutto quanto, erano in tutto romanzano, fa vedere il guaito con la dentina tirata, che sanno tirata, ma io li sentivo, se ero lì, e gli hanno detto che a giorni, però mica si sarebbero buttati a pancare il paravano. C'è tutto fratturato, mi pare che il paravano ha 3 mesi, da poi la cura di continuare a casa su. Sempre che si riprende anche a camminare. Io ho visto nel monte, lo stavano facendo in camera, il video no. Allora, però lui è messo male. L'ecografia li stavano facendo, lui nella camera, c'ero io, e stavo guardando i muri. Fa il bacino in tre punti, spaccato di lungo il bacino. Poi va tutte le gocciole fratturate, una gocciola lì c'è entrata la bocca d'oro, tutti e due i polmoni, e lì nel fianco c'è un pezzo di tubo che prende un polmone e l'altro polmone. Mi adesso dopodomani glielo devono levare per controllare, però poi glielo rimettono questo tubo. Se stesso tubo lo rifila, va un tubo, va un buco e un macchinario, pare una batteria attaccata, ma fa funzionare. Ieri glielo ha preso a letto con la batteria, e c'è il tubo tutto pieno di liquido ed è dentro i polmoni, tra uno e l'altro, mi è portato male. Poi va tutte le gocce, le fratturate. E vabbè, comunque del vivo che del morto. Guarda che lui al sole ha messo, qua me lo preferisco, più morto io che ci sono poco e non cammino ma ammazzo su. Lui c'è la sua coscienza, perché la polizia ci ha scritto sul giornale, vabbè i giornalisti sono fauraggi, che stava correndo in macchina. Guarda che i giornalisti sono bugiardi, guarda che è venuto l'avvocato suo, una donna, con i contraggeci, eh? E si è incazzato da me, ha pigliato il telefono, innanzitutto ha chiamato a chi si burisotti, sono giunti in buchese, gli hanno fatto tutte le domande, eccetera, che non si potevano permettere. E un casino c'era, stavo ascoltando, anzi da poi il tuffo mi sono vicino da pure con la bombola di ossigeno, a chi non se ne andasse a ne più. Comunque la della stanza facevi tu, e tuttora è lì. Sì, tuttora è lì, e beh, e dai che vino rimuovi. La batteria l'hanno portata a fare l'attacco con lo stesso letto, non lo puoi trasportare, no, cambiare da un letto all'altro. Se l'hai buttato, l'hanno imbattuto l'attacco, la cura già sta reagendo bene, se poi c'è bisogno già te la faccio fare fino avanti, magari. Tutto va bene, fatela. Col contrasto la gli ha fatta altri buchi ed è un po' dolorosa là col contrasto. Ho capito, vediamo un po' se c'è Giuseppe. Giuseppe! Tu, sono qua. Ma Graziano lo sento in mezzo al QRM, ma è possibile? E poi cose che succedono, Luca, è pure la cappitteggia. Io dico, se l'ho visto, è un attimo, non vi vuoi nulla. Quanto successo è, poi già succede altro. Dunque, la macchina è una macchina, non è sempre una macchina. E a subito lo conosce, la minorito, sai i cazzati che ha fatto, lascia perdere Grazia, lascia perdere, è fuori di gabbo, eh. E comunque mi è soprammutuato a Giuseppe, che mi ha detto che ti sente in mezzo al QRM, boh. No, no, se sotto carica, anzi adesso c'è un po' perché se no si scioglie, e Budelli, dopo riprende appena si raffredda un po'. A dopo vai, se no no che mi si chiude, no, non voglio attaccarlo vedo con l'antenna, ui, poi c'è l'ossigeno attaccato. Sì, non c'è problema, sono qua io, dai. E dopo quando raffredda ti chiamo, se no vedo si chiude, poi non ho voglia di alzarmi, mi devo venire brulando, se no devo stare con questo ossigeno appreso. Sì, io fai con comodo, sono qua io. Ehi, mia mamma mi basa un po', che mi dure pure un naso con questo tubo sempre 24 su 24. Oh, yeah, vado una china a pezzi. Però tu non sei busto male, se non sei busto bene. Già lo so, non sono busto bene. Ma a me non me ne ha fatti più niente, va. Vabbè, a dopo, va. Ehi, ciao. Luca, ci sentiamo dopo, che mi sdraio un po', va. Luca! Tatiano! No, questo, esatto. Luca! Bene, sto uscendo. Luca! Ehi, chi è? Prova, prova, 1, 2, 3, prova! Ah. Ehi, 1, 2, 3, prova, mi senti, Gian Maria? Sì, io ci sento. Ebbene, chi è che mi voleva? Luca! Chi è? Luca, mormito ti sì. Chi è, chi è? Ebbene, cosa stai facendo? Mi appena di sereno. Oh, io mi sono strappato un po' di nata a lui, sta qui in una fila. Ah, ebbene, come ti senti? Io non mi voglio niente. Un po' di luetti, un po' di ragazzi. Tutto fatto lì, fra 3-4, fra 4 ore mi devo ballare, io so, pure all'occhio mi devo ballare, e là che mi dice, ma di loro c'è un dolore. Va bene, l'importante è che si più bene là, io, anche se non bene bene, ma, cazzo. E noi proprio, era vicusimi, dobbiamo stare stasera, Catta, e infatti, Catta, sto strano, non decido, Graziano no, che non sta telefonato, boh. Perché tu mi hai telefonato, però ho fatto, ho controllato tutte le medicine e un bel mi mancava. Un bel mi ha sbagliato in farmacia, ma domani mi devo portare l'impegnativa, e quindi devo andare, Paoletta, andare all'autore, so. La cartella clinica, perché ci sono altre medicine scritte e mi devo fare impegnati. Poi devo mandarla all'oncologia per prendermi l'appuntamento per mettermi poi a segnarmi la graduazione dell'ossigeno giusta, capito? Un sacco di cose, poi dobbiamo fare un'altra visita. Ah, e ho spostato, adesso la gente deve tornare a telefonare, un casino. Io c'ero ieri sera dall'ortopedico. Cazzo, mai tu. I dolori, mi so. vaccino come cosa non c'è niente, solo che ci sono le artrosi e le artrosi non mi fa camminare bene, capito? All'anca tutte e due c'ho la soporosi e quando mi dori non cammino tutta, ma se si batte sta ne si ma a chi mi dolore più forte si blocca le anche e poi si batte le mani e non cammini, pur si può camminare non riesce a muovere l'anca. E infatti è come se fate a me il bacino, capito? Allora, per esempio, se ho più di un quarto d'ora abusato di racatrea, da poi mi nasco e sono tutta dolori, tutto il vaccino a dolore e mi faccio camminare male, che finalmente magari da poi fossi un poco di cammino, magari poco poco mi calma. Però oggi a giudizio non mi è calmato niente, se vuoi fare la giorno pure a fare un giro, un tomazzano, a Zaretti, insomma, e fino quasi mezz'ora, ma mi pare che mi ha appaggiolato, cazzo, non riesce più a cazzare un gradino, puoi immaginare, poi non li fa vedere l'ommari, ma prima fa dire un braccio dritto, che faccio lo dentro tutto lesionato, allora faccio lo sinistro pure, che l'acqua lavarmi la faccia mi viene a bene, capito? A chi non riesce, magari il sinistro riesce a alzarlo un poco, ma lo dritto non riesce a alzarlo, manca a pettinarmi e manca a lavarmi la faccia, capito? Ehi, perché a me sono tutti e due i bracci, scrocca pure, vado un rumore, crack. Infatti non mi hanno voluto fare intervento, non si hanno voluto pigliare responsabilità l'orto fisico. Né a rubrasse né a rudizio, rudizio mi ha già scappato. Se si vuole si funziona, se si vuole si funziona, fare un apprescato, una brappula, tac tac tac tac che si fa. Eppure l'altro braccio mi ha pigliato, ed è sempre dall'altro furuto. Capito? È un macello, eh. Un macello veramente, per carità, ha detto, deve camminare, dimagrire e fare movimento, ginnastica alle braccia, a camminare. E così si fa su ginnastica, si rifaccia di più, ritendere e da poi non riesce più a muovere i bracci. Ti puoi immaginare, per carità. Ah, tu pigliola quella una pastiglia che stavo prendendo, mi passa magari una virola di e mezzo e fa secchia una di e mezzo, per esempio, che non mi duri, ecco. Poco appena sì, mi duri, ma appena, per cui posso lavarmi, posso vestirmi e tutto. Però da poi una di e mezzo che mi passa, discenda e si peggio ancora. Ah, oggi gioco tutta la vita con questa ballina. La mano a destra e la mano a sinistra, che mi vede dei crampi e mi sta aggrappando tutte e due le mani, mi si girano e mi sta aggrappando le dita, pare di tentacoli, le zappe dell'acqua, una cosa, prima la destra, si passa la destra e mi viene alla sinistra e faccio questa pallina, no, che fa apposta per muovere le dita, per non vedere che mi viene a sé. Cazzo, ma pure la briga la gianna, mi sento la... Salti, polizzi la giave, il buco della serratura la gianna, non riesco a salvo, Se mi accompagno con la mano sinistra, riesco a salire e entrare la giave, se no non riesco. Ti puoi immaginare, a chi lo trecce fate troppo male, a chi fa la frattura, no? Magari il sinistro invece magari sì l'usore però di manco riesce a sopportarlo e riesce a salire un razzo ma lo stretto mamma mia cazzo. Però quando piglio questa macchina ripeto mi passa e riesce a salire come ti voglio il razzo, capito? Però anche io quando prendo tutte queste pastiglie un poco riesce a muovermi. Ma i simpatici ti drogano praticamente, hanno qui. Ci faccio una tremuretta, ci tocco più mezz'oretta che non me la piglio in orario, i simpatici. mi viene una tremoletta, a barocato, un alcolizzato. È giunto all'ospedale anche io, che mi ha visitato con un martelletto, mi dice i noci, so stare bene, mi ha fatto pure i piedi, con un rischio con l'occhio a guardare a destra, a sinistra, poi mi ha fatto camminare da lance e da rete, e mi ha detto, vabbè, si mette lì adesso, magari le aspetti tutte queste medicine che sta prendendo, vediamo più in là, ma di... faccio un tremolone, ma molto piccolo. Io stamattina me l'ha detto, hanno pigliarla, magari eventualmente, male male, che li faccia qualche volta, se gli fa molto male, qualche volta la prenda, però se posso evitare, meglio, ha detto, capito? Evidentemente fa male a qualche altra cosa che si abbassiglia, una capsula, come partito, una capsula. E io adesso che sto prendendo due tipi di cortisone in bastiglia, di una ne piglio la metà e l'altra in tre, la bastiglia. A sola, due ore da ben mangiato, faccio misurato la glicemia, via via 396, 396, no, 396, allora beppe, immagina me la do la misura, arrivare ma stessa, me la misura, me la misurata e ambeata. A Gesù vuoi agitarsi, assina che cosa lì, perché mi ci sale anche la glicemia, capi? Lo so. Ma la mia è un piccolo periodo, andava bene, 96 e 98, catta, 130, 125, è ballerina la mia, capito? Ma massimo a 143, invece prima era più alta, il mese passato è sempre più alta, mentre mai invece si è abbassata e sono tranquillo, massimo a 143, capito? Io me la misuro, lo mazzano era sera, prima di cena, capito? La sera 143, 146, invece lo mazzano è più bassa. Ma io adesso mi ci sale così perché il fatto di questo cortisone e tutte queste altre medicine sto prendendo in più, capito? Salire la glicemia. E praticamente se ci sarà una parte devi pigliare i medicini. Ma solo... sale alla parte e ti peggiora la sabba, capito? Ma infatti tu farà pure un grisso la macchina e si buoni, l'udito, perché ogni ora mi devo controllare la pressione arteriosa di Lusango di Luguri. E la pressione si segna questa macchina. E più mi è arrivata stasera, domani mi la consegnano una macchinetta che devo buffare sul tubo per tenere in allenamento il polmone. E i macchinetti li si pagano così? E allora l'hanno pagato, buffate tramite internet, a chi non vi costa un mese, tramite internet le ho pagate di meno. Vabbè, grazie, se ci vuole, per la salute ci fa dice altro, capito? Per la salute ci fa dice altro, ma si venga a ritirare, cazzo. L'importante è che sia una cosa che forse a me, capito? Dice la cosa più importante. A voi, io da ragione, mamma mia, per carità, cazzo, io. Grazie, c'è anche il riservaggio, mamma mia, cazzo. Comunque. Mi fa piacere, c'è a casa che hai migliorato, va, questo mi interessa, dai. Ciao tuo marito. L'hai misurata Paoletta, cazzo, tu sei meglio di me, chissà chi sei sempre drumbito, va un sangue arterioso, ti rivedi dell'arteria drumbito, drumbi. Paoletta come ti senti, c'hai senti di me avanti. Ehi, anche prendi, anche con tu pensi. Piano piano ogni cosa è depuso io burro, capito? Io ho depuso la bravetta di malapposto subito, per cui col tempo, capito? Con un tempo piano piano bisogna essere riservati, capito? E io ho ragione. Poi specialmente al 60 e però poi mi sa proprio attacco allo sbaraglio, bisogna stare attenti pure anche su Gliva, chi si mandando, chi sta arruinando tutto quanto, capito Paolo? Non credo, io non credo, io non credo, io non credo, io non credo, io non credo, io non credo, io non credo, io non credo, io non credo, io non credo, io non credo, io non credo, io non credo, io non credo, io non credo, io non credo, io non credo, io non credo, io non credo, io non credo, io non credo, io non credo, io non credo, io non credo, io non credo, io non credo, io non credo, io non credo, ok, adesso vado a farmi dare oso, a dopo va. Sei d'accordo, ciao Ro, allora stanno bene. Saluto il telecamera in cucina, ma in televisione a te la saluto senz'altro. Ci sentiamo Ro, ciao, ciao, grazie allora, dai. E da poi va in trattore, entra Bacchisio, Marino, magari più taglio. Per cui se vuoi entrare, da voi fare la rosso, entra. Fino a metà l'ultimo, la sattesa, da voi tutto. Ok, ci sentiamo, dai. Ciao, vai a fare la rosso adesso. Fate andare avanti, cugina. Va bene, dopo, mi devo preparare piano piano e me lo fa. E devo lasciare a dopo. Andalo. Vendi. Io non ci prendo. Ragazzi, chi è? Può essere. Chi può essere? Essere, buh. No. Me, Cristia, gabbè. E agli arresti domiciliari. No, scherzo. E a casa. Eravamo solo al monte. Eppure io sono qua alla doccia. E come mai stai male qui? Influenza? Già fa, bisogna lavorare purtroppo. Dai, stasera proprio... Basta che non ci vuole anche un... Sì, piano piano te ne rientri a casa. Con le foto una pittura, adesso sì. Ma con Antonio sì. No, no, sono portatelino piccolino io appresso. Va bene, dai, bene mi ascolti. Benissimo, e tu mi senti bene perché? Vabbè, se sei qua in zona sì. E come ti sono alla Madonnina io? Alla Madonnina, ho capito. Ti ascolto bene, dai, a voglia. Tu lo senti, Lu? Sì, ma ho per quelli... Oh, Lu, lo senti? Sì, io ho sentito l'ordine io. Ah, aspetta un attimo, qui. Lu, lo senti? Eia. Cappa, cappa, andava, dai. Va bene, va bene. Bene così, fratello. E dove lo fai il servizio d'ordine, Cri? In discoteca lo faccio. Ah, usavi quelli? Minimo, perché se non te lo già uso, mi faccio 20 rampi di scale per chiamare la di butta fuori, ma anche no. Beh, hai ragione, Tu fatti di qui, cioè, per chiamare butta fuori da giù al su se ne voglia. No, no, e là lavoro è due, triplo. Per me, portatilini si lavora meglio. Infatti, con l'auricolare, no? Vabbè, quello è poco ma sicuro. Già va bene, dai. Già ti gusta, la sai farà. Ah, da 926 usavo questi qui. Ah, a stare ai parcheggi, a scendere giù, a risolvere problemi, era meglio questo qui. Quelli che avevamo a vicenda. Beh, certo. Basta una chiamata e poi già arrivano anche gli altri. Ma gli altri però, erano belle personcine, fidati. E chi c'era con te? Zio Franco. Franco Luglio? Lubino, Lubino. E Franco Lubino, ho capito. E poi, Tonemura? No, quello va a toccare il cugino, scusa, Franchino ha lavorato con l'altro. perché di solito Lumino lavorava contro le mura. Ah, Gino Esposito. Esatto, sì, ma non è per salvare la cosa sopra. Mi lo reddo isso, Solo per una pistola, io ti so. Però pure hai capito, non conosco, ma devo abbastanza a buttarmi quattro persone assieme. Beh, la forza c'è, Fanno sport anche. Beh, lui mi sembra che faceva un lotta giudo, qualcosa così. Io mi trovo il palazzo dalla mamma. Io esci, ma tanto se fa un po' di verdura, esci. Cosa, Cri? Mi sono tanto a fare un po' di verdura. E ti sento un po' a tratti adesso, Mi sono piaciuto la cosa sulla voce. Oh, lui cosa ha detto? Non lo sento più. No, ma Sant'Orso, a nord. Non ti intendo più, Cri, non ti sento più. Mi senti adesso? Luca, mi senti? Luca, mi senti? Luca, sì, mi Graziano. Attenzione, Graziano. Attento, Graziano. Cos'è? Facci. Aspetta che lo mettiamo. Attenzione, Graziano, ci sei. Guarda me. C'è una domanda avanti adesso. Non riesci a mettere lo squelzo. No. Marino. Provo a vedere, Bacchi. Vuoi a vedere, lo senti? Sole. Allora, allo, messie. A vedere se mi ascolti. Buonasera, signor Bacchigio, buonasera. Buonasera anche a lei. Con chi? Con chi è che sta parlando, signor Bacchigio? Siamo un po' in... Non ho capito, si è uscito a metà. Siamo in tre, io, Marino e Tore. È il signor Figaro che è arrivato adesso. Buonasera, signor Giomaria. Per le PMR. Metà e metà. E te, è uno o l'altro però. Dunque salutiamo il signor Marino e salutiamo anche il signor Tore. E salutiamo anche a lei, signor Bacchisio. Vediamo un po', signor Tore. Buonasera, signor Giomaria. Bene, bene. Vediamo un po', signor Marino. Signor Marino. Buonasera, signor Giomaria, tutto a posto. Avanti, signor Bacchisio. Ma mi ascolti, ci stavi poco fa, adesso mi ascolti. No, è stato errore mio, Bacchisio, errore mio. C'avevo il pulsante schiacciato, tutto qua. Avanti. Allora perché condanni la gente, tu senza essere gente innocente è condannata, Gianmarino. Tu non stai uscendo, ed era lui invece. No, errore mio, c'avevo il pulsante, hai già capito, quello di sopra, schiacciato per altre cose, non mi sono accorto, tutto qua. Ti chiedo scusa, perdono. Avanti, Tore. Se non proprio bene a punire lo squelci in coso, boh, e non rimane. Lo fai come ti ha detto Bacchisio. Scendi giù in garage, la metti sotto la morsa, si è a posto. Avanti, Giovanni. Belli quei mandarini, ma Giovanni. Ok. Beh, se ho discuto qua prima, ma se due tornare un mattino in preciso. Aspetta, come te cose non senti bravi, Bebe. Fai prima, stai impazzendo. Scusa, fai quello che ti ha detto Gio Maria. Fai più fretta, to. Cos'è non puoi mettere, non riesci a mettere lo squeeze? Se lo metti si fa molto. Cazzo. Allora. Allora chi dà ragione? Dai la metto a posto io domani. Che se ne sono i quattro? Vabbè, ho 4 e 5 la metto si cosa. È meglio zinco. È meglio zinco che nudami. Tor, metti nella borsa e lo stringi piano piano, e lo squelce si mette da solo. Non credo che si metta da solo, ma chi è? Un po' difficile mettersi da solo lo squelce. No, lo mette da solo, se lo mette nella borsa, lo stringe piano piano. Oia. Tu già ce l'hai il computer già, aiuto, cazzo. Il meraviglio di te, cazzo. Non ce l'hai il cavetto? Che cosa devo fare? Con il cavetto non faccio nulla, devo solo leggere il manuale e basta. Sto leggendo il manuale. Ma c'è una ghetta, Vincenzo, ma per me non hai compreso nulla, boh. Ebbene, col manuale, anche se è scritto in inglese, più o meno riesci a capirlo, no? No, è tutto in italiano, eh. Non c'è un problema, niente. Il posso fare io che sono italiano e prico. L'austriaco no. No, dove essere così tonto perché non comprare manco l'italiano? Non so che io che... Otto, aiuto, però mi do di te. Un mese sì, di proprio me. Per forza, sei un mese sì. Porta la Gio Maria e te ne fa cinque. Scusa, Etto, se è scritto italiano, vabbè, molto ci vuole. Se era inglese è un discorso, ma italiano più o meno, già lo capisci qualcosa, no? Non lo so, io, bubu. E tu hai fatto le scuole alte? Scusa, che piano era? Quarto piano era? Fai al quinto, burro. Avanti, ma che? E tu stai facendo come il signorino? Come signor? Armalino, stavo dicendo che tu hai fatto come il sennovese. Dice, mi figlio mio che ha fatto il ricolo sasso, so. Per forza ha fatto le scuole alte, abitavano in basso di Sennori e le scuole sono in cima. E dice, figlio mio che ha fatto il ricolo sasso, so. E quella è la prima elementare. E Tore ha fatto così, guarda, la stessa cosa, Bacchì. Tore ha fatto la stessa cosa, avanti, Giovanni. Ok. Otto, ma qual è che non riesce a mettere uno squecce? Lo metto diventa muto. Boh. Lo metto, lo schiaccio e ne esce, però si sente il QRM. Ma qual è? L'ottava veloce? No, il polma. Ah, ho capito. È strano, eh. Ebbene, c'è la manopolina. Mi sembra che ci abbia due manopoline per le squecce, sia la parte che all'altra. No, non c'entra nulla, c'è il tasto, c'è. Quando premi il tasto... si mette, quando lo premi si toglie, però ce l'ho anche nel microfono. Ah, boh. Ma leggendo si riesce a capire, dai, già. Allora, se sei già scritto in italiano, per cui è facile a capirlo, dai. E piano piano dove? Sta presa senza nulla. Per poi se mi deve riuscire è facile, dai. Speriamo. Non vi so problemi. Si va da Bacchisio, trovo la poche Bacchisio. E la portano a me che la mettono nella morsa in campagna, le accudo una finta e vedo che squeccio non esce più. Lo sistemo per sempre. Oh yeah, yeah. Bene bene, io ne approfitto del micro perché è arrivata quell'ora lì. Bene, ciao Gio Maria, buona serata, grazie di essere stato a salutare a fare quattro chiacchiere. Io con le patatine per Marino. Ci sentiamo Marino, ci vediamo. Ciao Tore, anche per te. Saluto in casa a tutte e tre. E Bacchisio vi saluta e passa in QRT. Ascolto il finale e poi chiudo. Avanti Gio Maria. Ok, ciao Bacchisio. Buon proseguimento. Buona cena. Saluti in casa a domani, se Dio vuole. Vai Marino. Ok, così ne approfitto anch'io, dai. Ne approfitto anch'io che mi sta chiamando al mio nipote. Beh, ciao Bacchi, ben sentito, sono in casa, ci sentiamo, dai, se coincide domani è tardi, ci vediamo dopomani. Ciao Gio Maria, ben sentito pure per te, ciao anche a Tore, saluto a tutti gli ascoltori, anche per me, QRT, avanti Gio Maria. Ciao Mari, ci sentiamo, allora, saluto in casa, alle prossime. Tore. Ok, ciao Marino e ciao Bacchisio, ci sentiamo domani, se tutto andrà bene, ok. Ciao a tutti e due. Io non me la metto chissà funzione, ragazzi, se la metto più poi non l'ho usato quasi io quella lì, sicché. Però è strano, È strano diretto. Ma ce li hanno le manopoline per le squelce tutti e due, sì? No, c'ha il tasto, c'ha squelce. Ah, oh, beh. Strano, strano proprio. Anche io ne avevo uno, o così, che mi che non riusciva, stava facendo tirare la testa a mia Luca, stasera. Infatti l'ho cambiato e quello lì mi sono scappato e l'ho messo da parte. Non mi rimaneva, già rimaneva quella frequenza che stavo dicendo ieri sera, però mi annullava l'altra. Così che, perché ne rimaneva tutte e due in uno, e per cui una spariva quando abbassavi la portante. Mi sono soffatto, io e Luca l'ho messo dalla parte, adesso ho messo questo. Sì, vabbè, domani guardo di metterlo a posto. Ah, già ci riesco. Vabbè, dai Gianmari, mi sociamenti, ci sentiamo alle prossime. Ok, va benissimo. Ciao. Ci sentiamo, saluto in casa, a domani se Dio vuole. Ok, e allora chiudo anch'io, va, tanto sono già le 8, per cui meglio chiudere. Ciao, buonanotte. Sì, ok, ciao Gianmari.